passano le nuvole che vanno verso il mare, lembrano fagiolette bianche che salutano nostro amore. Dio, come ti amo, non è possibile avere tra le braccia tanta felicità. Baciare le tue labbra che adorano di vento, noi due innamorati come nessuno al mondo. Io come ti amo, mi viene di piangere in tutta la mia vita, non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero che può fermare il fiume che corre verso il mare, dei rondini del cielo che corre verso il sole, che può cambiare l'amore, l'amore mio per te. Io come ti amo, Dio come ti amo.